Raffamoni! Raffamoni! 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Oh, non funziona questa cosa. La Sindri era brava. Oh, ciao Luca. Allora funziona. No, è come ne raga giù in terra, capito? E poi via che l'ha silenziato, non sentiamo nulla. Sì, ma vuoi che funziona. Forte e chiasso. Forte e chiaro, meglio. Siccome è caduta non ho la frequenza più, non nel display, non segna più la frequenza. E dunque i canali li vado così a caso, non riesco a centrarli, perché se non so, se non c'è qualcuno che sta parlando non posso sapere se sono in frequenza o meno. E non si può fare niente. E il display che non accende più, cioè c'è solo la luce e basta, però i numeri non ci sono più. Le cauto per terra, Basenzia, e cosa vuoi fare? Ma è rotto? Rotto il display o è intatto? No, il display è intero, però non funziona. Si sarà rotto qualche componente interno, non lo so, Luca. Ma secondo me se lo apri, lo smonti, magari si è spostato a una specie di, non so come si chiama, vabbè, un coso fatto in plastica, però non è in plastica, che ha dei contatti, che serve per, come si dice, per far apparire il display, magari quello lì che si è staccato. Bisogna smontarlo e vedere un po', bisogna metterlo, magari si è spostato, se si sposta quello il display sparisce. Lo so, sicuramente qualcosa è successo, perché sennò avrebbe funzionato, perché funzionava sino a poco tempo fa, funzionava. Da poi da quando mi è caduto per terra, infatti non lo stavo più usando, cosa? Se non vedo frequenza, cioè se non vedo la frequenza, vabbè, adesso lo posso lasciare così, sintonizzato su questa frequenza, so che è lì e basta. Però siccome non sentivo più nessuno, che ho provato un sacco di volte, ho detto, ma forse non funziona la vita, cosa? No, funziona, ti ascolto bene abbastanza, dai. Non sei fortissimo, però ti ascolto. Lo so, non sarà fortissimo. Anche quello ce la vedete, da potenza, cosa ne so. Aspetta che provo a vedere, a cambiare il tasto della potenza, se mi senti più forte. Tieni a memoria così come adesso. Mi senti così, Luca? Sì, ti ascolto, a voglia. Ma più forte è arrivata la modulazione o come? Adesso non ti ho sentito. Non mi hai sentito adesso. Ho detto se è arrivata più forte la modulazione di prima o se è uguale. Ti sentivo meglio prima, adesso arrivi frusciato. Allora questo qui è al minimo, aspetta che aumento di nuovo, aspetta. Adesso ho aumentato un pochino, adesso dovrebbe andare bene. Adesso va benissimo. E se faccio così, aspetta ancora un altro colpo. No, non cambia niente, va bene anche adesso. E così, guarda com'è. Adesso dovrebbe essere al massimo, credo, Ah, ti ascolto bene, non sei... Ti hai poco sotto di QRM, ma ti ascolto benissimo, non ho problemi ad ascoltarti. Ho capito. Vabbè, no, perché non so qual è la potenza massima, perché questo ha tre potenze, un watt, 5 watt e 8 watt. Però non so qual è adesso, perché ormai il display non si vede e non so qual è. Se non sai quale modello è giù quello, se non me lo vuoi dire, mandamelo su WhatsApp. No, è perché non te lo posso dire a voi. Il Baofeng GT3PT alle fiancate gialle, a una parte all'altra è gialla. Ho capito, io la conosco abbastanza bene. Ed è quello che ti è caduto in terra e non si vede il display, giusto? Infatti è caduto per terra e non si vede più il display. E dunque non so, se poco a poco mi sposto, non so dove finisco. Allora ti conviene lasciarlo così. Lasciarlo lì e basta, tanto ora ti sposti e poi non sai dove, come fare. O se no farne un altro uguale e spostarlo con un altro uguale. Lo so, sarebbe l'ideale quello. Basterebbe digitare la frequenza e dovrebbe andare bene. Digitando la frequenza penso che vada bene. Anche. Già, Giulio, Perdonami, due secondi, arrivo subito, che mi devo assentare. Già sono qua in ascolto, mi devo spostare dalla camera. Ok, vai, vai. Oh, Luca, vai, vai. Giulio, ci sei? Attento, Giulio. Sì, sì. Oh, Luca, sì. No, stavo giocando con 440 su... a vedere, sentire la radio nazionale. Si prendono un sacco di radio, si prendono... radio spagnole, radio stranieri di ogni genere. Allora no, sto entrando per salutarti che sto uscendo, dai, era giusto per avvisarti. Nel caso ci sentiamo domani, dai, ok, ciao, buona serata e alla prossima. Ok, ciao Luca, ciao, alla prossima, ciao, grazie comunque per essere entrato a salutare, ciao. Ciao, ciao Giulio. Che avanti? Cappa, da dove moduli? Via Pirandello. Zona Pirandello. Zona? Via Pirandello, chilometro. Come lo ricevi? Come mi ricevi? Questo non lo posso fare, dai, non è male, non è male. Eia. Ma c'è, signor Tore? Attento, scuola di secco.